usa e getta, usa e getta, usa e getta, usa e getta, sì, ok, sono il re delle sconfitte, il mio drink è mendellate, non fuo e do consigli a chi se ne sbatte, fangulo a chi fa orecchie da mercante, prende solo sberle, ritornerò a dare porci le mie perle, volete vivere nei sogni, ma li ammazzate, credete di essere felici, sono cazzate, fate di testa vostra fino a quando vi scottate, cercate i miei consigli ma non li ascoltate, mai, non ho i poteri magici, ci sto lavorando, la bacchetta magica la sto costruendo, per i miracoli ripassa dopo marzo, se mi cerchi non hai capito un cazzo, non so che farmene di un'amicizia usa e getta, se vuoi la mia devi pagarmi, ho solo roba schietta, preferisco rimanere solo come un pesce nell'acquario, da piccolo mandavo a fanculo anche l'amico immaginario, non sarò l'amico usa e getta, quello che cerchi come una mignotta, anche di notte da usare come una marionetta, vuoi la mia amicizia, mettici la fotta, usa e getta, usa e getta, usa e getta, usa e getta, usa e getta. Secondo round. Sono tutti amici quando cercano un aiuto, prova a cercarli tu, non basterebbe già che il suo fiuto, tutto cambia tranne le persone, se non ci sono scelte io c'ho la soluzione, imbiccati col filo della speranza, sperando non ti spezzi quello della pazienza, a volte l'amicizia è come un cappio al collo, più si stringe e più mango ossigeno al cervello, ricerco ossessionato dell'amico usa e getta, quello che butti via come una sigaretta, l'amico usa e getta quando non serve più, ma ricorda io sono l'amico passepartout di cui non si riesce a farne a meno, mi adoro e ciclo, rendo il tuo mondo più sereno, e se la verità è quella che sta nel mezzo, tu non sei del tutto una testa di cazzo, te ne manca ancora giusto un pezzo, non sarò l'amico usa e getta, quello che cerchi come una mignotta, anche di notte da usare come una marionetta, vuoi la mia amicizia, mettici la fotta, usa e getta, usa e getta, usa e getta, usa e getta, usa e getta, usa e getta. Non sono mai puntuale, ma sempre in anticipo, il tuo migliore amico, forse sono un prototipo, sarei da conservare, ma è ora che la smetta, oggi do del lei a chi mi cerca usa e getta, litigo con chi ci tengo, in ogni momento è sempre benvenuto il chiarimento, ma è solo tempo perso, spiegarvi il mio universo è fatto di emozioni a cui mi lego come a questo verso, e non mi parli col plurale maestatis, se cerca il mio aiuto non l'avrà di certo a gratis, da oggi sarà do udes, da oggi sarà dura se vuole essere amico di Ness, è la reciprocità dei sentimenti, io sto sul cazzo a lei, lei a me, detto fuori dai denti, e con la maschera che indosso, quella col sorriso che fa pandan con la paresi sul suo viso, non sarò l'amico usa e getta, usa quello getta, che cerchi come una mignotta anche di notte da usare come una marionetta, vuoi la mia amicizia, quindi mettici la fotta, usa e getta.